già questo entra da spavaldo, come se la strada fosse già spianata, come se non ci fosse bisogno di presentarsi. Occhio a come ti comporti o bevi l'acqua raggia. Qua non siamo in tanti ma in pochi ci rispettiamo, e se non provi a rispettarci vedi dove ti spediamo. Quello che sappiamo fare poi non lo sappiamo fare, ma se ce lo fai notare poi ce la prendiamo a male. Questa gente che si vanta del suo bar e del suo podio mi procura indifferenza, regredendo torna odio. Meglio stare a parte o rapportarsi col rasoio, che se rappo pisci in testa a tutti senza territorio. Lince dalla milizia, ambasciatore porta pena se non è bella notizia. Eh sì, lo so che volevo l'amicizia, ma non ci vengo fuori a cena, al massimo ti do una pizza. Bella lince ti stimo, vuoi rosa, rose, rosario, caino? Il tuo invito lo declino, faccia da salva, da naio, suino. Barbiturici per questi, SS non tedeschi, che fanno arresti, pigliano i cervelli e danno teschi. S.O.S. o essere danteschi, e tuttora preferischi western, nazi, polizieschi. La mia città, la tua città, è piena di tutori della legge. Ma loro sperano ancora, loro pregano ancora, loro credono che il porco li protegge. La mia città, la tua città, è piena di tutori della legge. Ma loro sperano ancora, loro pregano ancora, loro credono che il porco li protegge. Dangerous fra, scemo leggi meno, la legge pericolosa. Green, MZP on the mic, nel grinder c'è Greenpeace, police più light bar. Nella mia città la novità sono gli sceriffi, ma nel rap zero stelletta al massimo hanno gli asterischi. Mischi banditi, liberi e liberi banditismi, liberi bandi per un lavoro da stagisti. Non mi identifico con la Newton, Newton vivo sclavi di gravità e muoio nudo, coperto di sporgenze sei bitorzo, muto in divisa ma diviso tra la panza e il fumo. Simpatica di mentalità isterica, sulla K con il CDD, Lady Gaga, la puntata conta di arrivarci sana. Da Russa d'Andiana, basta in campa. Una giornata di sole, parole all'aria, danno forza come il carceriere al carcerato in gabbia. Quello che sappiamo fare ce lo vuoi vietare, quando il popolo ha fame devi farci schia la tua faccia. Vivo in dormiveglia mentre sogno ad occhi aperti, perché il mondo ad occhi chiusi non so come si presenti. Ma bella, fissato come una piastrella, c'è chi manganella e chi è messo a pecorella.